di Rose Wilder che l'uragano ruggisca. Longmans, Green & Co., editore. Traduzione in italiano per la scuola delle donne di Francesca Grandi. Parte prima. Torrente Prugna Selvatica. Quando erano bambini e giocavano insieme, si dissero che si sarebbero sposati non appena fossero stati abbastanza grandi. E quando lo furono, si sposarono. A Charles piaceva ricordarle che non le aveva mai chiesto di sposarlo, gli piaceva vederla sorridere con calma, come lei sorrideva sempre alle sue prese in giro. Era una persona tranquilla. Da bambina le chiedevano spesso se il gatto le avesse preso la lingua. Anche con Charles aveva un modo di non dire nulla a parole, i suoi occhi, che non potevano mentire, dicevano ciò che sentiva. Prima di sorridere, una fossetta oscura fremeva su una guancia. Il suo viso era tranquillo sotto l'ala liscia dei capelli e tutti i suoi movimenti erano dolci e abili. In cuor suo non aveva mai perso lo stupore per il fatto che lei, silenziosa e timida e non molto bella, avesse conquistato un uomo come Charles. Era ridente, audace, un cacciatore audace, un ballerino, un violinista e un combattente. Pensava sempre a lui come era nelle domeniche pomeriggio d'estate, quando la sua famiglia trascorreva la giornata con la sua. Forse c'erano anche altri vicini. I vecchi si sedevano sulla panca contro il lato ombreggiato della casa di legno, parlando lentamente, con risatine e lunghe pause. I figli uscivano a vedere il vitello, i maiali, i bambini correvano in giro arrampicandosi sul recinto di rotaie, facendo incursioni nei boschetti di more selvatiche. I bambini dormivano su una trapunta sbiadita all'ombra della quercia e vicino a loro le donne riposavano su panche portate dalla casa. La nonna di Charles ondeggiava sul dondolo di noce che sobbalzava sul terreno sconnesso. Tutto nella radura era assopito finché Charles non si sedeva su un ceppo e accordava il suo violino. Il suo inno preferito lo sollevava sempre in piedi, il suo mento lasciava il violino, scuoteva indietro i folti capelli castani e la sua voce risuonava al di sopra di tutte le altre voci. Guidava il canto di sfide e di trionfo che attraversava i campi monchi e risuonava nella vasta foresta incontrastata. Che l'uragano ruggisca! Prima sarà finito. Supereremo la tempesta e atterreremo alla fine sulla riva felice di Canaan. Mentre Charles e Caroline crescevano, molti coloni erano arrivati nell'insediamento di Big Woods. Quando si sposarono era rimasta poca terra buona. Più a ovest il paese non era ancora stato colonizzato e si diceva che la terra fosse ricca e pianeggiante, senza foreste. Così andarono a ovest. Il padre di Charles era un uomo aperto e aveva 6 figli più giovani di lui, poteva permettersi di essere generoso. Charles non aveva ancora 19 anni. Il suo lavoro apparteneva al padre fino all'età di 21 anni, ma il padre gli regalò il suo tempo, un dono gratuito di oltre 2 anni. E per completare il tutto, per una buona dose di fortuna, regalò a Charles la squadra e il carro che avrebbe guadagnato lavorando, se avesse lavorato, fino ai 21 anni. I genitori di Caroline le regalarono 2 coperte, 2 cuscini di piume d'oca selvatica, pentole e padelle. Le regalarono un prosciutto, un formaggio, 2 stampi di zucchero d'acero e le poesie di Tennyson, splendidamente rilegate in verde e dorato, con incisioni in acciaio. Lei aveva le trapunte patchwork che aveva cucito da sé. Charles aveva il suo violino e la sua pistola. Le loro famiglie insieme mandarono a Est la Bibbia e il cavaliere del circuito organizzativo scrisse il loro certificato di matrimonio sulla pagina prevista. Le pagine per le nascite e i decessi erano ancora vuote, in attesa di essere scritte. Così, ben provvisti, partirono per il West. All'inizio Caroline era triste perché stava lasciando la sua famiglia per sempre, le mancava la vita intensa con la madre e le sorelle nella capanna di legno, il ritorno del padre dal lavoro o dalla caccia, persino la quercia vicino alla porta e il sentiero che portava alla sorgente, ma questi ricordi smisero presto di ferirla nella sua profonda felicità con Charles. Non riuscivano mai a decidere quale fosse la cosa migliore. Le mattine fresche, quando i primi raggi del sole trovavano Caroline che impacchettava i piatti lavati e Charles che fischiettava mentre agganciava la squadra, o i giorni variegati di viaggio verso ovest su strade sconosciute, o le serate davanti al fuoco del campo. Charles suonava il suo violino mentre i cavalli pascolavano e le stelle o la luna brillavano in cielo e l'aria notturna era dolce, oppure stavano comodamente seduti insieme con la luce del fuoco sul viso e parlavano, parlavano delle cose che avevano visto quel giorno e della casa che avrebbero avuto nel West. Poi Caroline spegneva il fuoco mentre Charles legava i cavalli al sicuro per la notte e andavano a dormire nel carro. Ogni giorno Charles sparava alla selvaggina. Quando avevano bisogno di farina, tè o zucchero, si accampavano in qualche insediamento mentre lui si occupava delle provviste. Ogni volta che aveva soldi, le portava un regalo. Una volta una scatoletta ricoperta di piccole conchiglie con uno specchio incastonato nel coperchio. E una volta 15 metri di calicò per un vestito di cui non aveva davvero bisogno. Lei lo rimproverava perché era parsimoniosa, ma non gli impedì mai di portarle dei regali. Gli piaceva vedere lo splendore negli occhi di suo marito. Alla fine dell'estate raggiunsero la prateria occidentale e Charles trovò un lavoro facendo la squadra, partecipando alla squadra della ferrovia. Stavano per avere un bambino. E lui voleva guadagnare soldi, disse che la casa poteva aspettare, ne avrebbe cercata una in giro e nel frattempo lei doveva rimanere nel campo della ferrovia. Il lungo terrapieno della ferrovia veniva spinto verso ovest. Decine di uomini e di squadre ci stavano lavorando, sollevando un basso fumo di polvere sotto l'enorme cielo. L'accampamento era piccolo nell'immensa pianura, dove non c'era altro che chilometri di erba selvatica che soffiava nel vento. La casa a castello, la casa del cuoco e il negozio della compagnia erano tutti di legname grezzo nuovo. La moglie dell'appaltatore aveva una piccola baracca di legno e anche la sorella che gestiva la cucina, ma erano affollate. Caroline non voleva starci. Allora Charles le costruì una baracca di zolle. Lui tagliò le strisce di zolla dure e lei lo aiutò a costruire le pareti e a stendere la tela del carro sopra di esse. Una tettoia di erba e di fango teneva fuori il calore del sole. In 2 giorni la casa era finita, ordinata, fresca e tutta sua. Charles stava trasportando le provviste al nuovo campo, 20 miglia a ovest. Ogni 2 notti era lontano da lei e lei si sentiva sola. La signora Baker e sua sorella non le piacevano, erano donne rozze e gonfie, tronfie, molto più vecchie di lei. Parlava di più con i loro figli, che correvano a gambe nude e abbronzate, facendo chiasso e correndo con i loro pony a dorso nudo nella prateria. Nelle notti in cui Charles era lontano, lei rimaneva sveglia a lungo. Un lupo lontano ululava. Un coyote si aggirava furtivamente intorno alla baracca. Il negozio della compagnia era rumoroso di stivali e di voci roche, di uomini che bevevano e giocavano d'azzardo. E una voce solitaria passava cantando: «Ho lavorato alla ferrovia per tutto il giorno. Ho lavorato alla ferrovia per passare il tempo». Charles le aveva dato una pistola e lei non aveva mai avuto paura, ma voleva che Charles fosse presente. La solitudine era difficile da sopportare. Le mani e il viso erano bruni come quelli di un indiano a causa del vento e del sole della prateria. Quando si slacciò il colletto del basco, fu strano vedere il viso marrone sul collo bianco come il latte. Charles la prese in giro. «Vieni qua, Squaw, dammi un bacio, piccola Squaw. Piccola Squaw, il tuo bambino sarà un papoose». Lei ci pensò su, sedendosi sulle sue ginocchia. «Beh», disse sobriamente, «è anche il tuo bambino». Non aveva mai capito il suo grido di divertimento quando diceva qualcosa di palesemente vero come quello, ma sapeva che la sua risata faceva parte del suo amore per lei. A settembre i venti erano bordati di freddo e per tutto il giorno il cielo grigio risuonava dei richiami degli uccelli selvatici che volavano verso sud. Gli uomini lavoravano scontrosamente tra il vento freddo e la polvere, tutti i loro salari erano stati restituiti al magazzino della compagnia e ora i campi stavano chiudendo. non ci sarebbe stato più lavoro fino all'anno prossimo. Nel campo più a ovest c'erano state rivolte per i salari e gli uomini erano stati uccisi, ma Caroline sapeva che Charles poteva cavarsela da solo. Aveva guadagnato abbastanza soldi per le provviste per l'inverno, per gli attrezzi e per le sementi e aveva trovato una fattoria. I suoi occhi azzurri brillarono quando glielo disse. In questa tenuta c'erano già una piroga e un fienile e 50 acri di zolla erano già stati coltivati. Un altro uomo aveva preso la terra e fatto tutto quel lavoro, eppure si stava arrendendo, stava tornando a est. Diceva di non poter sopportare un altro inverno di solitudine. Charles chiese: "Sarebbe troppo solitario per te, Caroline. Non ci sarebbe un altro essere umano nel raggio di 30-40 miglia. Tu non dovresti andartene." No, ci sarei, ma lui non finì la frase. Lei disse subito: "No, non mi sentirò sola, se ci sarai tu." Nel cuore della notte Charles si recò all'ufficio del territorio per ottenere quella proprietà prima di tutti gli altri. Non aveva ancora 20 anni, ma era un uomo sposato e capofamiglia, quindi non doveva aspettare di averne 21 prima di presentare una richiesta di concessione di una proprietà terriera. Caroline ascoltò lo sferragliare del suo carro che si allontanava nel buio. Mancavano 30 miglia al Land Office. Passarono 3 giorni. Il sole era tramontato, il cielo era di un giallo pallido e freddo, sfumato di rosa lungo tutto il bordo dell'orizzonte, quando Caroline sentì di nuovo il rumore del carro da lontano. Charles stava cantando con giubilo, poteva sentire solo la melodia, ma conosceva le parole. Venite in questo paese, non sentitevi in allarme, perché lo zio Sam è abbastanza ricco da darci una fattoria. Sapeva che lui aveva i documenti. In 5 anni sarebbero stati proprietari della loro terra. Il lavoro si era fermato nei campi. Sotto le linee degli uccelli selvatici che volavano verso sud, un flusso di uomini si dirigeva verso est. Sui carri, a cavallo, a piedi, stavano tornando al paese colonizzato. La cucetta era vuota e la cucina chiusa. Nel vento gelido, Caroline aiutò Charles a impacchettare le provviste e a togliere la copertura del carro di tela dalla baracca di zolle. Quella notte dormirono nel carro e il mattino seguente Charles agganciò i cavalli e partirono verso ovest. L'accampamento rimase buio. Solo i panettieri erano impegnati con le lanterne a caricare gli ultimi beni della compagnia sui loro carri, diretti a est. Charles si fermò davanti al negozio per salutare. La signora Baker si arrabbiò quando seppe che Charles e Caroline non sarebbero partiti per l'inverno. Era una donna grande, robusta, che si tagliava i capelli come un uomo e non portava corsetti. Si trovò di fronte a Charles con le mani sui fianchi. Quella bambina, nelle sue condizioni, disse, vuoi ucciderla? La sua schiettezza spaventò Charles. Non aveva pensato che fosse così pericoloso per una donna avere un bambino, ma ora era pronto ad abbandonare tutto e a portare Caroline a est. Era d'accordo che lei dovesse avere con sé delle donne vicine. Al momento del parto, ma Caroline pensava alla tenuta, sapeva che i vendicatori l'avrebbero conquistata, avrebbero potuto uccidere Charles quando fosse tornato in primavera. Rimase in silenzio finché non fu detto tutto, poi guardò la signora gonfia, lasciò trasparire dai suoi occhi che non pensava che la signora Baker fosse una vera signora e con voce soave disse gentilmente: "Arrivederci, signora Baker, ora dobbiamo andare." Charles proseguì, ma era ancora pronto a tornare indietro. Era turbato. Caroline non era affatto turbata. "È naturale avere dei bambini." Gli ricordò: "Posso avere i nostri nella fattoria come in qualsiasi altro posto." Quando lui insistette, lei disse con decisione: "Non voglio che nessun altro sia presente quando nascerà il bambino o la bambina." Non accettò reclami. Charles era così coraggioso che avrebbe corso il rischio con loro. Poi il sole si affacciò sulla prateria ed entrambi erano spensierati. Guidarono tutto il giorno senza incontrare nessuno. Una volta videro un cavaliere in lontananza, ma presto scomparve. Forse era un indiano, forse era uno dei fuorilegge bianchi i cui nascondigli erano più a ovest. In inverno non avrebbero disturbato nessuno. Per tutto il giorno l'orizzonte mantenne il suo cerchio invariato intorno ai cavalli al trotto. L'erba selvatica si increspava al vento. 2 volte Charles indicò una tana di bufalo e una volta videro un lupo al passo. Nel pomeriggio passarono davanti all'albero solitario, un albero di cotone solitario, un punto di riferimento per tutto il paese, e Charles uscì di strada per prenderne alcuni semi. Poco prima del tramonto girarono intorno alla fine di un canale di scolo. Poco più avanti c'era un fienile di zolle. Charles vi passò accanto e all'improvviso la prateria, che sembrava pianeggiante, si divise. I cavalli si fermarono sull'orlo di un baratro. «Eccoci qua», disse Charles. Gli occhi di Caroline si erano fatti tondi. L'aiutò a scendere dal carro e insieme rimasero a guardare l'acqua nel letto del torrente sottostante. Guardando Caroline, Charles rise ad alta voce per la gioia. Aveva tenuto il torrente segreto per sorprenderla. Lei non sapeva che c'era acqua nella fattoria. Non avrebbero dovuto scavare un pozzo. Ho pensato di chiamarlo Wild Plum Creek. Il torrente prugna selvatica, disse Charles. Due piccoli alberi di prugne selvatiche, infatti, spogli di foglie distorti dal vento, si trovavano in riva all'acqua. Come fossero arrivati lì era un mistero. Sono vivi, disse, fioriranno in primavera. Non vedeva l'ora di mostrarle la panchina, era sotto i loro piedi. La zolla della prateria era liscia e l'erba che veniva soffiata dal vento nascondeva la parte superiore del tubo della stufa. Un sentiero scendeva obliquo contro la ripida riva del torrente fino all'ingresso. La sporgenza di terra prima della portata era stretta e poteva essere facilmente tenuta sgombra dalla neve. La porta si apriva in una stanza abbastanza grande da contenere tutte le loro provviste. Era pulita e ordinata, il pavimento era liscio e duro e la tela copriva il soffitto e parte delle pareti. C'erano una branda, un tavolo, una panca e una stufa di ferro. Charles li aveva comprati dall'uomo che aveva abbandonato il posto. La luce del sole entrava dalla porta che guardava attraverso la bassa riva occidentale del torrente verso la prateria infinita e il cielo. C'era anche un piccolo foro per la finestra, coperto con carta oleata, che lasciava entrare la luce del giorno durante l'inverno. «Ti piace?» Charles chiese inutilmente. «Sì», rispose lei. Le sorrise profondamente negli occhi e quasi la schiacciò nel suo abbraccio vigoroso. Niente poteva essere più accogliente per l'inverno e più fresco in estate. E tutto questo comfort, il buon fienile a zolle, il quarto di sezione di terreno ricco e privo di alberi, il ruscello, gli alberi di prugne e persino un po' di palude che avrebbe fornito fieno per i cavalli e fieno da bruciare nella stufa. Tutto questo era loro. Dovevano solo vivere lì e lavorare la terra. E in 5 anni avrebbero avuto il pieno titolo di possesso. Caroline disse: taglieremo anche il tetto del nostro carro e copriremo il resto del muro. Prima che arrivassero le bufere di neve, tutto era a posto. I cavalli erano al caldo nella stalla, con fieno e avena per sfamarli fino a primavera. Nella sua foga, Charles aveva tagliato tutta l'erba secca e le cataste erano alte accanto al fienile. La piroga era accogliente mentre i venti ululavano e la neve alta si muoveva in cumuli sul terreno. Nei giorni di bel tempo Charles usciva con il fucile e tornava con carne e pellicce. Caroline strofinava, cuoceva, lavava, stirava e cucinava. Nei giorni in cui le bufere di neve arrivavano stridenti da nord-ovest, Charles si dirigeva a tentoni solo verso il fienile e poi tornava indietro. Aveva teso una corda dalla cima del sentiero alla porta del fienile in modo da non perdersi nelle tempeste accecanti, ma Caroline era inquieta finché non tornava sano e salvo. Eppure quei giorni erano i migliori di tutti. Charles puliva il suo fucile, oliava gli stivali, attorcigliava il fieno per il fuoco. Da due scatole da imballaggio ricavò una culla. Raschiò accuratamente il legno con un pezzo di camino rotto finché non fu liscio come la sua mano e sulla testiera intagliò due uccellini e un nido. L'ambiente era rallegrato dal suo fischiettare mentre lavorava. Caroline risparmiò i suoi lavori di rammendo e cucito per questi giorni di tempesta. Lavorava in silenzio, sorridendo tra sé e sé. La luce della lampada era allegra, la stufa emanava il suo calore e il buon odore della cucina. Poi Charles prendeva il suo violino dalla scatola, suonava e cantava, tenendo il tempo con il piede che batteva. Erano davvero giorni di festa. La domenica non lavoravano e Charles suonava solo inni sacri. Era splendido vederlo e sentirlo, mentre urlava le sue canzoni preferite al vento che ululava nel tubo della stufa. Poi Caroline gli leggeva. Charles era un lettore lento, ma gli piaceva ascoltare Caroline, che leggeva ad alta voce. Leggeva la Bibbia, le poesie di Tennyson, e quell'inverno lesse il libro verde e dorato da cima a fondo, e questo rese la loro vita ancora più ricca e bella. Febbraio era sereno, il freddo era così intenso che l'aria sembrava ghiaccio scintillante e il mondo silenzioso era sepolto dalla neve. Caroline ora era pesante e goffa e il suo respiro era corto. Anche se il tempo era buono per la caccia, Charles andava solo al fienile e poi tornava. Non la lasciava a lungo da sola. A volte, anche quando lui era lì, Caroline sentiva il silenzio, aveva paura. Il silenzio di quelle miglia di neve non toccate da alcuna traccia di esseri umani, segnate solo dai venti disumani e dalle zampe degli animali selvatici, era senza inimicizia, ma senza pietà. La sua indifferenza era più crudele dell'odio. Cercò di ricordare tutto quello che aveva sentito sul parto, ma era molto poco. Non lasciò intuire a Chas quanto desiderasse sua madre. Il dolore iniziò un pomeriggio presto. Aveva preparato una partita di pane, aveva spostato la pentola più vicino al fornello in modo che l'impasto lievitasse più rapidamente. Charles doveva avere da mangiare mentre lei non era in grado di cucinare. Lui stava attorcigliando il fieno per ricavarne combustibile, fischiettando mentre attorcigliava, raddoppiava, annodava le lunghe ciocche di bastoncini sodi, e lei riuscì a impastare il pane e a modellarlo in pagnotte prima che lui la vedesse in faccia. Sapeva che il dolore sarebbe stato forte ed era decisa a non protestare. Non avrebbe reso le cose più difficili per Charles. Le donne indiane partorivano i loro bambini in silenzio. Quella notte fu molto lunga. Si sdraiò nella cuccetta e sorrise a Charles ogni volta che poté. Ancora peggio del dolore era il terrore. Il suo coraggio sembrava così piccino contro l'implacabile indifferenza che possedeva il suo corpo. Si aggrappò disperatamente a Charles, ma anche lui era impotente. Non gridò. Nei momenti in cui tornava ad essere se stessa, era felice e orgogliosa di non aver urlato. Charles le asciugava il sudore dal viso, lei gli sorrideva e parlava con gioia del bambino, della bambina nascitura. Più volte lei aveva chiesto con sorpresa: «Non è ancora mattina?» Poi tutto diventava confuso. La luce e l'oscurità si mescolarono. Sentì delle grida e sapeva che erano le sue, ma non riuscì a fermarle. Anche Charles era scomparso, non c'era altro che un'agonia insopportabile. Lei stessa si stava consumando, stava andandosene via. Un ultimo piccolo atomo che lottava con la paura di fallire. Il bambino nacque la mattina del secondo giorno. Per molto tempo seppe di essere sdraiata sotto palpebre troppo pesanti da sollevare, ma finalmente le sollevò e vide il volto di Charles, e lacrime di pietà le salirono agli occhi. La sua voce non aveva più un suono. Lui si chinò più in basso e lei gli sussurrò all'orecchio: «Come stai, il paparino?» Voleva farlo sorridere. Quando lui singhiozzò, lei pensò che il bambino fosse morto. Le lacrime le scesero dagli occhi, ma Charles singhiozzò di nuovo: «Sta bene! Oh, Caroline! Caroline!» Il bimbo era nato il giorno del suo 17° compleanno, come un regalo. Caroline se ne accorse quando Charles stava scrivendo il nome del bimbo e la data sulla pagina bianca delle nascite della loro Bibbia. Sperava che il bimbo fosse come Charles, ma era contenta che fosse nato il giorno del suo compleanno. Lo chiamarono Charles John. Era un bambino grasso e sano e non piangeva quasi mai. Charles lo stuzzicava, gli faceva il solletico, lo stropicciava e lo lanciava in aria, e lui per primo rideva alla vista di Charles. Caroline gli lavava i vestiti ogni giorno, gli faceva il bagno nell'acqua di neve riscaldata sulla stufa, e quando si sedeva a tenerlo in braccio mentre lo allattava, la sua felicità quasi la spaventava. Sembrava troppo grande per essere duratura.